I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Abbiamo avuto una settimana ancora brillante per i mercati finanziari internazionali, nonostante molti elementi di incertezza che ancora continuano a condizionare lo scenario finanziario. In particolare tengono banco i ripetuti botta e risposta fra il governo greco e quello tedesco, ed è stato tenuto sotto stretta osservazione il ministro delle finanze greco Varoufakis nel weekend a Cernobbio. Rimane sui massimi da 15 anni Tokyo, lo spread settimana scorsa ha toccato gli 83 punti base, tornando in sostanza alla fase pre-crisi. Ricordiamo solo che nell'autunno del 2011 aveva toccato i 570 punti. Tutti sono d'accordo nell'affermare che è il quantitative easing di Mario Draghi che funziona e che protegge l'euro, come lui stesso ha affermato nei giorni scorsi. E proprio l'euro ha toccato i suoi nuovi minimi da oltre 12 anni sul dollaro sotto quota 1,05. A Piazza Affari, seduta molto vivace venerdì scorso per alcune società, in particolare Eni e di conseguenza anche Saipem, ha avuto uno scivolone pesante dopo la presentazione del piano triennale al 2018, il taglio del dividendo e l'interruzione del piano di buyback, cioè di riacquisto di azioni proprie. Anche il lusso è finito sotto i riflettori, con il mercato che ha premiato i conti di Salvatore Ferragamo mentre ha bocciato quelli di Tots. Periodo decisamente positivo invece per Fiat, il gruppo automobilistico ha raddoppiato il suo valore in borsa da quando si è quotata a Wall Street e continua a correre. Novità infine anche in casa Monte dei Paschi, Alessandro Profumo è pronto a lasciare la presidenza del gruppo dopo l'aumento di capitale che verrà lanciato fra maggio e giugno. I temi da monitorare questa settimana: la riunione della Bank of Japan, ma soprattutto la riunione del Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, domani e mercoledì. In settimana avremo anche l'inflazione dell'Eurozona e il bollettino economico della Banca Centrale Europea. Oggi, infine, dagli Stati Uniti, dati molto interessanti sull'andamento del mercato immobiliare. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Borse europee ancora positive sull'effetto della Banca Centrale Europea e probabilmente sulla convinzione che la crisi greca è destinata a trovare un esito positivo, non traumatico. Due sono i dati che oggi colpiscono: l'indice della Borsa di Milano, che ritorna ai livelli di 4 anni fa, e quello della Borsa di Francoforte, che ha fatto segnare oggi il suo record storico. A confermare che il piano di acquisto di titoli da parte della Banca Centrale Europea sta funzionando, ci sono anche uno spread nuovamente in calo e un euro sempre molto debole rispetto al dollaro. In effetti l'attenzione degli operatori è in queste ore rivolta proprio al rapporto euro-dollaro. L'indebolimento dell'euro favorisce, lo abbiamo detto più volte, l'export dei paesi europei. In più la nuova caduta del prezzo del petrolio sta in qualche modo neutralizzando gli effetti negativi che un dollaro forte avrebbe invece avuto sull'import di energia. Secondo alcuni, però, la discesa dell'euro è stata un po' troppo veloce, il che fa intravedere anche possibili scenari negativi. Quel che si teme è che questa situazione possa determinare un deflusso massiccio di liquidità verso le attività in dollari, e ciò sia per i temori di ulteriori deprezzamenti dell'euro, sia perché al previsto ulteriore aumento dei tassi americani si contrappongono in Europa tassi molto vicini allo zero, con poche opportunità di guadagno per gli investitori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.